Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Nessun contenuto, nessun settore può essere indifferente o può prescindere dalla situazione che stiamo attraversando, tanto più il mondo dei consumi così sotto pressione. Due settimane fa, lo ricorderete, ci siamo uniti all'appello di tante categorie del mondo dei consumi per dire no alla psicosi, un messaggio che resta valido ma che deve lasciare spazio inevitabilmente a quello più importante di queste ore: restare a casa, cambiare le proprie abitudini, limitare la socialità, gli spostamenti alle necessità primarie, come chiesto dalle istituzioni, dai medici impegnati in prima linea nella lotta al coronavirus. Abbiamo fatto qualche modifica nel format, iniziamo la puntata con quella che di solito era la nostra riflessione finale. Mai come in questo momento abbiamo tutti bisogno di una bussola per decifrare la complessità del presente. Il consumautore. Non più la riflessione finale dunque, ma quella iniziale, lo faremo fin quando ce ne sarà bisogno. È il tempo della responsabilità per i consumautori, del resto non è una novità. Francesco Morace, ben ritrovato. Come questa situazione sta cambiando la percezione delle persone? Buonasera Maria Luisa, a tutti i radioascoltatori. Sta cambiando in modo radicale, diciamo che per la prima volta, almeno per le generazioni, ma direi quasi tutte, si tratta di partire dalla propria salute che viene messa in discussione, quindi è la nostra integrità personale che viene attaccata a tutti i livelli, quindi sicuramente c'è una discriminante generazionale, più anziani che sono più colpiti, ma ad esempio dal punto di vista delle classi sociali i dati ci dicono che c'è un'assoluta drammatica democraticità del virus. Questo vuol dire che prima di tutto la salute, vuol dire che tutta la dimensione del consumo, del commercio viene messa in seconda battuta, anche se spesso le nostre paure ci portano ad avere delle reazioni inconsulte, no? Il panico, l'attacco ai supermercati, che però poi dopo qualche giorno si normalizza. Direi che questa è l'occasione migliore per poter ragionare tutti su un concetto che noi spesso in questa trasmissione abbiamo ricordato, e che è il bene comune. Cioè qui il bene comune non è il pensare all'altro in modo generoso, ma capire che il bene dell'altro è anche il nostro, perché il contagio funziona così. È un valore al quale anche le aziende possono, devono ispirarsi, lo abbiamo detto più volte del resto in questo spazio. Come? Ti chiedo questo, come non sembrare opportunisti o retorici per un brand, un'azienda? Allora, in primissima battuta sicuramente fare un passo indietro in un momento di grande paura e in un momento delicato in cui ciascuno ha delle priorità diverse, ad esempio evitare tutti i messaggi promozionali aggressivi, evitare diciamo l'hard selling, no? L'idea che si possa sfruttare il momento anche per chi vende mascherine, ecco, proprio nel senso più proprio di una sensibilità collettiva. E poi l'altra cosa forse decisiva è che ancora una volta, per la prima volta, il virus sconfigge il fake, nel senso che è talmente veloce la verità, cioè questi dati che tutti noi ci siamo abituati ad ascoltare alle 18 del pomeriggio e che purtroppo riguardano i deceduti, i contagiati, i malati, supera qualsiasi tentativo di manipolazione. Quindi alle aziende diciamo rimanere su quello che si sa fare, e sicuramente la competenza, l'essere comunque forti in questo momento corrisponda all'essere anche bravi. Ecco, in questo senso i migliori da questa crisi usciranno rafforzati. È una situazione che sta portando in primo piano anche il valore, la necessità di una leadership a livello politico, istituzionale, ma anche del mondo produttivo, associativo, mediatico. Servono voci autorevoli. Servono voci autorevoli, anche in questo caso competenza e conoscenza. Non a caso è un momento in cui inevitabilmente i virologi, i medici, chi è in prima linea acquisisce una credibilità che tutti gli altri non hanno, ma questo non basta, si tratta di avere anche quella capacità empatica, che ad esempio permette a un sindaco di fare le scelte giuste per i propri cittadini, ma anche di saperle spiegare, di saperle motivare. Quindi sicuramente decisionismo, ma nello stesso tempo anche grande capacità empatica, direi leadership morbida ma molto decisa. Pavolettoni! Pronti! Vai! Vado! Carella! Pronti! Vai! Vado! Falsi! Che cavolo fai? Sto caricando i pacchi, ma perché così tanti, signor Carotti? Ma non sei milanese, non ti piace di lavorare? Allora lavora, no? Bauscia! Dalle consegne a domicilio gratis ai tutorial, dalle piattaforme premium ad accesso libero fino ai contenuti per il tempo da trascorrere a casa. Ecco come il mondo dei consumi si sta impegnando per l'emergenza. Donazioni, consegna gratuita agli over 65 e operatività non stop. Forte anche delle maggiori vendite registrate, la grande distribuzione è in prima linea nell'emergenza coronavirus. Esselunga ha annunciato donazioni di 2 milioni e mezzo di euro per gli istituti impegnati nell'assistenza dei pazienti, consegna gratis della spesa online per gli over 65 fino a Pasqua e un intervento straordinario di welfare da 150 euro per ogni collaboratore dei negozi della catena. I possessori di carta Fidati, inoltre, avranno la possibilità di convertire 500 punti in 5 euro che Esselunga donerà agli ospedali. Free delivery per gli ultra 65enni anche da Conad e attraverso l'app Supermercato 24 da Bennet, Carrefour, Tuodì, Fresco Market, MD e Iper. Coop Lombardia, già attiva nel servizio di consegna alle persone anziane, e Lloyd's Farmacia si sono impegnate per la consegna gratuita dei farmaci. In caso di necessità, l'app PharmApp si occupa anche del ritiro della ricetta dal medico curante. Consegna gratis per Domino's Pizza mediante la modalità senza contatto. FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, e Asso Delivery, l'associazione di categoria delle imprese del food delivery, alla quale aderiscono Deliveroo, Glovo, Just Eat, Uber Eats e Social Food, hanno condiviso un decalogo di buone pratiche per garantire il servizio nel rispetto delle misure precauzionali e dei requisiti igienico-sanitari. Gara di solidarietà per i grandi brand, da Armani a Dolce & Gabbana, da Bulgari a Etro, fino al crowdfunding di Chiara Ferragni e Fedez. Intesa San Paolo si è detta pronta a donare fino a 100 milioni di euro. L'app Fintech Revolut sostiene una campagna di donazioni a favore della Fondazione Humanitas. Corsi di lingua gratis per tutti gli studenti con l'app Babbel. Libero accesso per le donazioni online delle scuole primarie e secondarie anche su reduc.com, mentre la Cineteca di Milano consente di accedere gratuitamente al proprio archivio di film storici attraverso il servizio di streaming online. Giro di vite dei big della tecnologia, infine, sulle mascherine su cui da settimane è scattata la speculazione. Google, Facebook e Instagram hanno deciso di vietare temporaneamente tutti gli annunci pubblicitari sul prodotto. Lo sciacallaggio attorno all'epidemia è forte e la Guardia di Finanza è dovuta intervenire ripetutamente per contrastare rincari e frodi, acquisendo documenti anche nelle sedi di Amazon e eBay, che si sono impegnate a monitorare le offerte irregolari. Ora ci fermiamo per una piccola pausa, restate con noi perché nella seconda parte torneremo sulle rassicurazioni a proposito dei generi alimentari e di prima necessità, per chiudere invece con uno sguardo extra coronavirus. Non smettiamo di guardare al futuro con il focus sui trend su arte e retail, tra pochissimo. Era inevitabile, l'odore delle mandorle amare gli ricordava sempre il destino degli amori contrastati. E come certi odori, a volte solo le voci possono condurci dentro le vite. Mi hanno portato tipo anche una fascetta, quello me lo dovevo mettere quando uscivo di casa, per significare io appartengo a loro. Vite dimenticate nei faldoni dei tribunali o nelle periferie più trascurate, vite che aspettano solo di essere raccontate. Storiacce, i racconti di Raffaella Calandra, ogni domenica alle 21 su Radio 24 e in podcast su radio24.it. One Express, il pallet espresso. Vi presenta. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I fatti raccontati in modo semplice ma senza semplificazioni e spiegati in profondità affinché diventino idee da condividere. Effetto Giorno dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14. Naturalmente qui su Radio 24. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere Avere, negozi chiusi in tutta Italia dunque, così come bar e ristoranti e le attività per i servizi alla persona, aperti invece alimentari, farmacie, benzinai, tabaccai ed edicole e tutti i servizi di delivery. Nessun problema per le scorte alimentari è stato assicurato, inutile quindi affollare i supermercati, anzi è contrario alle indicazioni delle normative sull'emergenza. In caso di lo ricordiamo, l'ingresso viene contingentato per poter assicurare la giusta distanza tra le persone in coda e all'interno delle corsie. Il sistema distributivo italiano è solido, ci ha assicurato Giorgio Sant'Ambrogio, presidente di ADM, Associazione Distribuzione Moderna. Il sistema di filiere italiano è un sistema efficientissimo. Quindi cosa significa? Che dall'industria arrivano quotidianamente tutte le merci che arrivano nei nostri centri di distribuzione e ogni giorno noi riforniamo tutti i supermercati d'Italia, sono circa 37.000 supermercati, per cui la filiera è assolutamente oliata. Quando la gente vede che ci sono code ai supermercati non significa necessariamente che c'è ressa all'interno dei supermercati, ma che tutti i supermercati in maniera responsabile stanno facendo entrare poche persone alla volta per far sì che ci siano le misure di sicurezza chieste dal nostro Presidente del Consiglio. Detto questo, è assolutamente inutile recarsi di notte, recarsi per fare grandi scorte nei punti di vendita, perché la merce c'è e ci sarà sempre. I produttori stanno producendo, i trasportatori stanno trasportando tutti i prodotti nei magazzini, dei magazzini nei punti di vendita, e anche i prodotti freschi ci saranno sempre. È inutile quindi accalcarsi, è inutile fare scorte principesche, anche perché poi dopo c'è il problema che alcuni prodotti si sprecano. Il sistema distributivo complessivo italiano è assolutamente efficiente. Abbiamo sentito chiaramente anche gli esponenti del governo, tutti i punti vendita alimentari saranno aperti sempre e saranno sempre disponibili le merci, e qui devo dare atto a delle misure di responsabilità sociale corretta, dovuto direi, di tutti i punti vendita che stanno appropinquandosi verso questo periodo con continuando a fare le offerte commerciali, continuando ad avere lo stesso livello di prezzi, quindi inalterato, e non vi è nessuna modalità per cui c'è speculazione sui prodotti alimentari. I prezzi rimangono lo stesso, anche perché il rapporto fra domanda e offerta permette veramente di esaudire ogni singola richiesta dei clienti consumatori italiani. È tutto nella normalità per quanto riguarda la filiera, i prodotti alimentari ci saranno sempre e i supermercati saranno sempre aperti. Guardiamo anche al vostro interno, alla vostra forza lavoro, anche voi siete sotto pressione, state chiedendo ai vostri dipendenti sforzi importanti, perché siete sempre aperti, appunto ci siete e fornite questo servizio ai cittadini. Che riflessioni state facendo in questo senso? Allora, noi ovviamente non vogliamo assumere il ruolo che hanno i medici, che è mille volte più importante, però devo anche ribadire che al fine di consentire questa normalità nell'avere i prodotti alimentari nei supermercati ogni giorno, devo dire che anche qui abbiamo sospeso determinati permessi, soprattutto nelle fasi logistiche, e stiamo stressando molto la filiera logistica, quindi da magazzino a punto di vendita. Quando prima andavamo a rifornire alcuni punti di vendita una, due, tre volte alla settimana, adesso il rifornimento è quotidiano, quindi dal punto di vista anche del personale, da questo punto di vista un encomio a tutti i lavoratori della filiera, perché anche loro non hanno un minuto di pausa, anche perché molti punti di vendita sono aperti 24 ore, appunto per consentire che ci sia un normale flusso dei clienti. Focus sui trend. Arte e retail, un binomio esplorato più volte in entrambe le direzioni, oggi si arricchisce di nuove declinazioni che passano dalla street art alle installazioni fino all'e-commerce. Ne parliamo con Luisa Schiero di Future Concept Lab. Ciao Luisa, bentrovata. Ciao Maria Luisa e buonasera a tutti. Iniziamo dal principe, dal re degli street artist, Banksy, raccontaci. Questo personaggio così tanto amato e così poco conosciuto in realtà come proprio persona fisica, ma apprezzato da un punto di vista artistico. Un'ulteriore, chiamiamola, provocazione d'autore, che questa volta si è calata anche nella dimensione, come dicevi, del retail, in particolare di quello fisico. Cosa è successo? A Londra, siamo più o meno ottobre dell'anno scorso, improvvisamente in un quartiere a sud di Londra, abbastanza periferico, apre una sorta di negozio costituito solo da vetrine. Non c'è una porta, non si può entrare, ma all'interno, in maniera anche molto visibile, con della buona illuminazione eccetera, sono presenti prodotti, diciamo, domestici. Infatti il negozio si è chiamato Gross Domestic Product, che letteralmente in effetti vuole anche dire, un po' provocatoriamente, prodotto interno lordo. Questi oggetti proposti, queste sue creazioni, sono state tutte realizzate con materiali di riciclo e successivamente venduti all'asta con un e-commerce. Un'asta molto particolare, perché innanzitutto era vietata a tutti coloro che fossero galleristi piuttosto che nomi affermati del mondo dell'arte. Si partiva, pensate, addirittura da 10 sterline come quotazione minima, era accessibile a chiunque fosse appassionato, ma in più, oltre ad avere fatto la richiesta ovviamente nel sito, si doveva rispondere a una domanda molto precisa e un po' anche in questo caso provocatoria: che cos'è l'arte? Cioè, l'arte è importante? E una giuria, Banksy ha dichiarato, avrebbe poi dopo valutato chi erano le persone che avevano risposto in maniera più per lui soddisfacente, e sappiamo che per questa giuria addirittura aveva scelto un famosissimo come giudice imparziale, un cabarettista professionista inglese. Ecco, quindi vediamo subito come in questo caso quasi l'atto di retail è una meta arte pura stessa. Ci spostiamo in Italia con un caso molto importante che arriva dalla Toscana e ha a che fare anche con gli Uffizi. Un evento davvero molto interessante per quei pochi che hanno potuto goderne, credo veramente appassionante. Parliamo di Conceria Superior, una conceria nata ormai già negli anni 60 in Toscana, che produce pelli di lusso, soprattutto per il mercato dell'alta moda. È stato pensato questo evento, che si chiama Leather in Art Experience, quindi la pelle nell'esperienza artistica, in cui è stata compiuta una sorta di visita con una particolare lente all'interno degli Uffizi. Venivano quindi esplorati e riscoperti, se vogliamo, anche dei particolari molto specifici all'interno dei quadri del Rinascimento, in cui erano stati dipinti particolari in pelle delle concerie del lusso, anche in questo caso del Rinascimento piuttosto che del tardo Medioevo, per cui per esempio i calzari di Mercurio nel dipinto di Botticelli della Primavera, piuttosto le famosissime stringhe dei cavalli di Gentile da Fabriano nell'Adorazione dei Magi. Diciamo che lo scopo è stato quello di, da un lato, evidenziare quanto anche questi aspetti così particolari sono sempre stati presenti anche nella pittura dei grandi maestri italiani, e d'altro canto provare a trovare un collegamento diretto sia a livello di gusto, di stile, ma anche di qualità per quella che è la conceria contemporanea, valorizzandola e quindi anche esplorandola in un modo diverso. I brand striziano l'occhio all'arte come contenuti, e di conseguenza anche i negozi possono diventare vere e proprie gallerie d'arte. Questi negozi di cui parleremo, coreani, sono proprio nati con questa intenzione e continuano a essere realizzati in questo modo. Parliamo di un brand coreano di occhiali, si chiama Gentle Monsters ed è stato, diciamo, fondato a Seoul nel 2011 da Hankook Kim. Ecco, il fondatore, pensate, all'interno della sua azienda, è forse un caso abbastanza singolare in cui l'innovation coinvolge un numero superiore di persone per quanto riguarda il retail piuttosto che il prodotto. Parliamo di occhiali dalle montature molto particolari, d'avanguardia, molto apprezzata per esempio dallo Star System internazionali, però la cosa importante che ci riguarda in questo momento è il fatto che tutti gli flagship aperti sia in Oriente che poi anche nell'Occidente, Stati Uniti eccetera, sono tutti diversi tra loro e tutti quanti appaiono nelle intenzioni e poi anche per chi li visita come delle gallerie d'arte, cioè vengono all'interno non soltanto proposte opere d'arte di giovani autori, ma anche proprio un allestimento spesso molto in riferimento a movimenti artistici occidentali anche del passato, come a Beijing il surrealismo Duchamp, piuttosto la Mobile Architecture nell'ultimo negozio di Shanghai. Ma è come se in questi negozi il prodotto passasse in qualche modo non tanto in secondo piano, ma si fondesse letteralmente in un percorso che è come quello nelle varie stanze di una galleria d'arte, come quello invece del negozio. Ultima proprio chicca nel negozio di Shanghai, un riferimento in questo caso colto ai salotti letterari del Settecento francese, la creazione di uno spazio per artisti, giovani designer, appassionati e tutto quanto per poter condividere e poi anche sostare in qualche modo, come si può fare anche in una galleria d'arte vera e propria. Chiudiamo con un brand del lusso che ha voluto reinterpretare il retail, in particolare un pop-up store, come una vera e propria installazione artistica. Sì, esattamente. Siamo in questo caso, ci trasferiamo a New York. È stato aperto questo bellissimo, veramente di impatto pop-up, completamente verde, ricoperto di verde, in cui tutto era verde, da parte del nuovo direttore creativo, uomo di Louis Vuitton, Virgil Abloh, conosciuto per essere un personaggio assolutamente eclettico, street artist, anche lui parte dalla pop art, piuttosto che esso stesso creatore di un brand off-white di abbigliamento, che però è stato chiamato proprio da Louis Vuitton un po' anche in maniera sorprendente rispetto a quello che è un heritage anche proprio estetico più classico dell'azienda. Ecco che questo pop-up, come dicevo, spiccava nei quartieri dell'Over East Side di New York per questa sua visibilità cromatica non fine a se stessa, perché se tutto, veramente tutto, era ricoperto da una patina di verde all'interno, a parte i prodotti del brand, anche il marciapiedi e gli elementi di arredo, piuttosto che anche i sacchetti della spazzatura che erano abbandonati, erano stati tutti in maniera un po' scenografica ricoperti di verde. Era però presente anche un muro, anch'esso dello stesso colore, perché il green, il neon green, è il colore preferito e necessario da parte degli artisti multimediali per poter lavorare e creare effetti di sovrapposizioni, eccetera. Ecco quindi che Virgil Abloh in questo caso chiamava i consumatori, gli appassionati, gli artisti che passassero da quello spazio per poter dare essi stessi la loro visione creativa e un loro contributo video nei vari social. Luisa Schiero, grazie, alla prossima. Grazie a te, arrivederci a tutti. Finisce qui questa puntata di Essere Avere, anche da noi la raccomandazione di restare a casa con responsabilità e intelligenza. A domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.